prende, prende fuego el sudor de mi frente y prenden a los artesanos cuando venden, prende, prenden en la calle al indigente y prende al que no pela sus intereses, venden solamente lo que ellos quieren, si venden a su madre por 20 billetes, sienten ser superiores a otros seres, no van por el camino, les guió Mephistófeles. No worry, no worry, me absolute hands every morning. No worry, no worry, me a hustle as a food is coming. No worry, no worry, Babylon na na na stop we growing. So no worry, no worry, be you. Una historia para que te la creas nada más. Piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Allora, siamo qui con Giovanni Verla, che è il funzionario della FIOM che segue la Toyota di Bologna. Siamo tornati dalle ferie, Giovanni, e abbiamo... Io non sapevo nulla, mi sono trovato con queste notizie sui giornali. La FIOM che ha mandato sui social l'iniziativa che voi avete fatto a Bologna. Insomma, c'è stata una cosa importantissima per quanto riguarda anche un incontro con le istituzioni per discutere del futuro della Toyota di Bologna. Allora, raccontaci un po'. Dove nasce questa preoccupazione, queste iniziative che avete fatto? Certo, buongiorno a tutti e a tutti intanto. Noi veniamo da una discussione fatta nei mesi precedenti alla chiusura estiva, dal mese di maggio in avanti, per quanto riguardava la gestione di un calo produttivo importante, un calo produttivo che sta caratterizzando l'intero settore del sollevamento a livello sia dell'Emilia Romagna, perché ci sono varie aziende costruttrici, ma più in generale a livello europeo. E questo è un primo dato preoccupante, perché parliamo ovviamente di un bene di investimento, quindi non di un bene di consumo. E registrare un calo importante sui beni di investimento è sicuramente un campanello d'allarme rispetto alla condizione della manifattura, ma in generale di tutti i settori produttivi all'interno del nostro continente, perché comunque Toyota Material Handling, quindi l'azienda del gruppo Toyota che produce carrelli elevatori, ha un mercato esclusivamente europeo. Abbiamo dovuto gestire questa difficile situazione con un accordo, lo dico in maniera molto chiara, sofferto, perché abbiamo dovuto gestire un centinaio di lavoratori in somministrazione. Una parte di questi sono stati stabilizzati dentro la discussione che abbiamo fatto, per un'altra parte è stato invece costruito quello che gergalmente in sindacalese definiamo il bacino, quindi una lista bloccata che per i 2 anni prossimi permetterà a questi lavoratori di avere il diritto di precedenza assoluto nel caso di nuove assunzioni. Questo per un accordo sofferto che però ha avuto un punto sicuramente importante per dare la prospettiva. Prima ancora però c'è stata tutta una discussione che aveva visto investimenti importanti annunciati e in via di realizzazione da parte dell'azienda per oltre 150 milioni di euro sui 3 stabilimenti che ci sono in Emilia Romagna. Sono 3 società diverse, autonome, ma tutte facenti parte del gruppo Toyota. La discussione però noi l'abbiamo posta in termini diversi, nel senso, visto che discutiamo sempre anche dentro la vertenza del contratto nazionale, diciamo che deve essere centrale il tema delle politiche industriali e politiche industriali d'anticipo, non politiche industriali quando i boi sono scappati, quindi quando ci sono le condizioni di crisi conclamate. Visto che il gruppo Toyota affronta una situazione di criticità di mercato, ci sono gli investimenti. Abbiamo però ritenuto che, essendoci la riunione del CAE, quindi il Comitato Aziendale Europeo, a Bologna, potessimo utilizzare quel momento per mettere al centro della discussione quegli elementi di strategia industriale che poco ci convincono. Ecco, la cosa che mi ha colpito è il fatto che inizialmente, appena ho visto la notizia, mi sono arrivate subito delle richieste di chiarimento da parte di lavoratori, personaggi della politica, giornalisti, in cui mi hanno chiesto qual è il problema della questa crisi Toyota, no? In realtà voi avete fatto qualcosa di preventivo. Proprio ieri il segretario nazionale ha parlato, insomma, dell'iniziativa dello sciopero come qualcosa di importante, di fondamentale. Cioè voi fondamentalmente, chiariamo questo punto qui, non è che la Toyota vuole licenziare delle persone, è in precinto di spostare completamente la produzione. Voi avete fatto qualcosa che spesso non viene fatto, nel senso che avete subito chiesto che venisse affrontata la questione, perché non vi volete trovare in un futuro un'ipotesi in cui vi dovete stare lì a parlare di esuberi, di chiusure, robe varie, qualcosa di preventivo. Per questo vi fate dello sciopero. Esattamente, proprio questo è il punto. Noi non siamo di fronte alla crisi dell'azienda. Questa è proprio lontana la crisi dell'azienda. C'è una crisi di mercato, ma che è una condizione ovviamente totalmente diversa dalla crisi aziendale. Non ci sono dichiarazioni di esubero, non ci sono dichiarazioni di ristrutturazione, anzi, ho detto prima, l'azienda sta investendo 150 milioni di euro in immobili, attrezzature, progetti. Il punto però noi l'abbiamo proprio posto in termini di politica industriale, di strategia futura, perché dobbiamo avere un'organizzazione sindacale e con essa le lavoratrici e i lavoratori che guardano con attenzione al futuro e alle scelte che l'azienda sta facendo, perché proprio sulle scelte che noi comunque degli elementi di criticità li abbiamo sottolineati. I primi elementi sono quelli collegati alla strategia commerciale di questa guerra commerciale che c'è con l'Oriente. Poi parliamo di un'azienda giapponese, ma sappiamo bene che dalla Cina e da altri territori vicini la concorrenza è spietata, e ci sono anche aziende europee che hanno fatto delle scelte sempre sul settore, acquisendo aziende cinesi, portando la produzione in Europa. Allora, il tema che abbiamo proprio posto è stato quello di dire come noi contrastiamo e qual è la strategia, perché poco ci convince la strategia che l'azienda fino ad oggi ha messo in campo. L'altro elemento è quello collegato alla scelta industriale, nel senso di dire, la tecnologia, noi dobbiamo avere la garanzia che ci sia un ciclo integrato all'interno dell'azienda. La tecnologia che si sviluppa deve essere anche prodotta all'interno degli stabilimenti o comunque all'interno di una catena di fornitura che sia vicina, quindi l'Emilia Romagna piuttosto che ovviamente il territorio nazionale o l'Europa, però riuscire ad avere tutto il know-how che viene sviluppato e prodotto all'interno dei nostri territori e degli stabilimenti. Questo per contrastare quello che invece abbiamo visto sono state le scelte fallimentari sull'automotive, dove per anni si è comprata tecnologia fuori, poi sappiamo cosa è successo con aziende cinesi che invece in house, come si suol dire, hanno costruito invece tutta la loro forza e realizzato tutto il prodotto. Il terzo elemento è quello dell'allocazione delle produzioni delle linee di prodotto. Sono tre gli stabilimenti di assemblaggio finale, produzione finale del carrello elevatore. A seconda di quelle che sono le caratteristiche, la motorizzazione, l'alimentazione dei carrelli, e noi dobbiamo avere la garanzia che lo stabilimento di Bologna, nonostante gli investimenti, ripeto, sia centrale rispetto alla scelta di allocazione di tutte quelle che sono le linee di prodotto che possono essere realizzate all'interno di quello stabilimento. Sono questi i motivi che ci hanno spinto a dire c'è l'occasione del CAE, quindi quel comitato che spesso diciamo è solo informativo, ed è così, ma che noi dobbiamo invece riempire di significato e di azione politica. Tant'è che dopo quella giornata noi siamo arrivati ad avere appunto l'iniziativa di sciopero di tutti i tre stabilimenti in Emilia Romagna, quindi Toyota Material Handling Manufacturing Italy, lo stabilimento produttivo, Toyota Italia, la parte commerciale e di vendita e di assistenza, e LTE nel ferrarese che produce i montanti per tutti gli stabilimenti produttivi in Europa. Dopo questa iniziativa, che ripeto per la prima volta ha visto un'iniziativa di gruppo, abbiamo avuto un incontro in regione che è stato un incontro che riteniamo importante, perché l'azienda, in maniera onesta, non si è sottratta alle critiche che sono state poste, ha ribadito tutto l'interesse e l'intenzione di garantire la tenuta occupazionale, questo non è mai scontato dentro le discussioni, anche nella prospettiva, ma dall'altro la regione, su sollecitazione nostra, ha preso una posizione anche questa importante, perché se da un lato molti di questi investimenti sono anche finanziati a livello regionale e a livello nazionale anche dal governo, dall'altro però è stato ribadito come ci debba essere la garanzia piena di un piano industriale che garantisca la piena operatività. Questo è proprio il punto che prima anche tu sottolineavi, cioè quello di dire noi non possiamo andare anche in sedi istituzionali solamente quando ci sono le condizioni positive, quindi quando bisogna mettere la firma su accordi di sviluppo, ma bisogna avere anche la responsabilità, ed è questo che abbiamo chiesto alla Regione, di avere una regia su tutto quello che è il sistema industriale, anche nella prospettiva, e quello è un posizionamento importante. Da ultimo, sottolineo anche questo, chiaro che è difficile che ci siano iniziative di questo genere in occasione del CAI di mobilitazione quando non ci sono delle situazioni di crisi. E quindi anche le altre delegazioni europee e le delegazioni aziendali, dico onestamente, sono state anche stupite di questa accoglienza, utilizziamo questo termine. Però è stato un evento importante perché alla fine di questi due giorni il presidente del CAE e con esso tutto il CAE sono usciti e hanno assunto una dichiarazione che fa propria la preoccupazione che negli stabilimenti italiani abbiamo sottolineato, condividendola e ammonendo l'azienda rispetto a quella che deve essere una maggior chiarezza sulla strategia e richiedendo un impegno alla trasparenza e alla responsabilità rispetto a tutti i siti, a partire dai siti italiani. Non possiamo poi, dico in conclusione, dimenticarci anche quello che è successo l'anno scorso, perché certo, lo stabilimento di Bologna sappiamo bene che è stato purtroppo luogo di una strage che ha visto morire due lavoratori, avere oltre 20 feriti. Su questo ovviamente adesso la magistratura farà il suo corso, ma noi dobbiamo sempre avere a mente la responsabilità che tutti quanti abbiamo nel garantire la salute e la sicurezza e l'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori, non soltanto sul luogo di lavoro, ma anche nel luogo di lavoro, perché quella è stata una tragedia che ha dimostrato come ci possa essere anche l'insicurezza quando semplicemente entri nel tuo luogo di lavoro e non solo quando svolgi la tua prestazione lavorativa. Una cosa importante ti volevo chiedere, lo sciopero che avete fatto, come è andato? I lavoratori come hanno reagito? Ma lo sciopero, devo essere sincero, è stato uno sciopero assolutamente riuscito. Noi abbiamo fatto il giorno prima le assemblee e la comunicazione dello sciopero, i lavoratori si sono trovati a rientro dalla chiusura estiva. È chiaro che noi venivamo dalla discussione che prima avevo detto, che aveva visto quella conclusione con quell'accordo sulla gestione dei lavoratori somministrati. I lavoratori, dico in maniera onesta, hanno capito quali erano le nostre richieste. Noi siamo stati molto onesti con i lavoratori in assemblea. Bene, guardate, questo non è lo sciopero che il giorno dopo vedi il risultato, non è lo sciopero classico di un'avvertenza aziendale per il contratto, piuttosto perché per le condizioni di lavoro o altre vicende. Questo è uno sciopero che deve lasciare un segno, e se questo segno sarà capace di lasciarlo, lo lascerà nel medio barra lungo termine, perché sappiamo bene che queste aziende sono aziende che hanno piani industriali e piani commerciali a lungo termine. Il lancio di prodotti ha una visibilità di anni in avanti. E quindi noi abbiamo avuto questo punto, secondo me, di assoluta chiarezza, e i lavoratori hanno capito questo punto. Non evidenzio anche una cosa, non solo gli operai e quindi la produzione ha scioperato e partecipato al presidio davanti all'azienda in maniera compatta, ma c'è stata anche una parte significativa di lavoratrici e lavoratrici impiegate che hanno scioperato a partire dagli uffici tecnici e quindi da proprio quegli enti aziendali che hanno colto pienamente quali erano le nostre preoccupazioni. E questo penso che sia un punto importante, perché, ripeto, facile, tra virgolette, è fare l'iniziativa dal punto di vista della riuscita sindacale quando ci sono le situazioni conclamate o le tensioni. Molto più difficile invece, appunto, far passare con le lavoratrici e i lavoratori il concetto che la lotta serve anche per costruirsi il futuro, anche nel momento in cui può sembrare esserci meno elementi di incertezza. E penso che questo sia un punto che anche nell'avvertenza del contratto nazionale, come dicevo, ci richiama a responsabilità, perché noi ormai sono anni che diciamo che è necessario che ci siano politiche industriali, su queste politiche industriali si costruisca il futuro del nostro paese dal punto di vista industriale, non solo. Ti ringraziamo, noi siamo con voi, siamo anche vicini e dunque vi seguiremo, perché dunque sarà una cosa di lungo periodo, vediamo quello che accadrà in Toyota, perché è importante, hai detto bene tu, qua stiamo parlando di un prodotto che è di investimento e riguarda tutta la filiera industriale d'Italia, d'Europa e anche oltre, e dunque è importante seguirla questa vicenda, è importante che venga a risolvere i vostri problemi e arrivare, insomma, a meta. Certo, assolutamente. Poi anche la conclusione di quell'incontro in regione ha visto la regione prendersi l'impegno a un tavolo permanente, e anche questo, sottolineo, non è un elemento comune, perché di solito i tavoli in regione sono tavoli di crisi o tavoli che servono per definire una condizione specifica. Avere invece un tavolo permanente su una prospettiva industriale è proprio il punto che noi abbiamo cercato di mettere al centro, che è stato colto dalle istituzioni in maniera positiva, e quindi, come dicevi, noi abbiamo davanti un percorso lungo, e quindi in questo percorso lungo sicuramente ci incontreremo ancora, avremo ancora necessità del supporto della vortice dei lavoratori, anche degli stabilimenti attorno a quello di Toyota. Ti ringrazio, grazie mille. We must fight for, from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the boss's wiser. The Union forever defending our rights, bound with the black leg, the workers unite with our brothers and our sisters from many far off lands. There is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize, when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his eyes. Avete ascoltato Giovanni Merla, che oggi ci ha raccontato della vertenza della Toyota, dello sciopero del 2 settembre, uno sciopero preventivo, uno sciopero organizzato con l'arrivo della delegazione del CAE, no? Il Comitato Aziendale Europeo della Toyota. È stata una mossa davvero intelligente. Arriva al CAE delegati di tutta Europa, e in Toyota i lavoratori italiani organizzati sciopero per 2 ore per dire a Toyota: guardate che non ci fidiamo, guardate che vogliamo discutere del futuro, vogliamo discutere di investimenti, e non vogliamo andare dalle istituzioni quando ormai la fabbrica sta per chiudere, quando ormai sono scappati con tutte le macchine. Vogliamo affrontare, se c'è una crisi, se ci sono degli investimenti da fare all'estero, ci sono dei problemi, li vogliamo affrontare adesso. Vogliamo che la regione faccia un tavolo permanente, quello che ha fatto, e vogliamo evitare di andare sempre di fare sempre le lotte all'ultimo momento, quando ormai la situazione è molto critica. È stata una mossa intelligente. Io spero che l'esempio Toyota, così come ha detto il segretario nazionale della FIOM De Palma al comitato centrale, venga riproposta questa modalità, che si intervenga, che si comincia a ragionare di investimenti, che si comincia a ragionare sul fatto che noi vogliamo capire le aziende, dalle multinazionali alle piccole aziende, cosa vogliono fare, e vogliamo monitorare, soprattutto in questo momento così difficile in tutta Europa, visto quello che sta accadendo, guerra, riarmo, crisi industriale, mancanza di piano industriale di questo governo, che fondamentalmente non gli interessa assolutamente dell'industria di questo paese, dobbiamo essere molto vigili, vigilare e stare attenti. La Toyota è un esempio, noi faremo anche noi così, spero che si estenda questo esempio. Quest'anno, questa è la prima puntata, abbiamo subito affrontato questioni metalmeccaniche, il Pane Rosa è una trasmissione dei metalmeccanici, ma non affronteremo solo la vertenza delle fabbriche, il contratto nazionale. Ho già registrato una puntata fatta con i lavoratori dello spettacolo, perché cercheremo sempre di più di dar spazio anche a chi non è metalmeccanico, ma chi lotta, come ad esempio i lavoratori dello spettacolo negli ultimi mesi stanno facendo una bellissima lotta che racconteremo. C'è la questione della Palestina, della guerra, della subflottiglia, abbiamo fatto delle cose interessanti che ne parleremo nelle prossime puntate, anche nelle fabbriche metalmeccaniche, non solo nei porti, la battaglia sta dilagando, ma anche nelle fabbriche si sta muovendo qualcosa, racconteremo anche questo, ma soprattutto parleremo di tutte le problematiche dei lavoratori in generale e anche altro. Cercheremo di spaziare il più possibile, di non limitarci solamente alle vertenze metalmeccaniche, spero di riuscirci. Chiaramente io sono un metalmeccanico e finisco sempre per parlare della nostra vita di operai metalmeccanici, ma spero di poter raccontare anche altro. Ecco, sentiamo la prossima puntata, compagni, a presto. All'interesse di evitare che i lavoratori e le lavoratrici possano rivendicare i propri diritti.